teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 25 luglio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E come ogni quarta settimana del mese, questa settimana parleremo dell'anno internazionale dell'astronomia e ne parleremo questa volta con Elena Lazzaretto dell'INAF e soprattutto curatrice di vacanzesullaluna.com. Buongiorno Elena. Buongiorno a tutti. Elena, all'inizio normalmente la trasmissione comincia con 100 parole e quindi in 100 parole iniziali mi vorresti introdurre che cos'è per te l'anno internazionale dell'astronomia? L'anno internazionale dell'astronomia che si celebra non a caso nel 2009, quest'anno, perché il 2009 è un anno importante. Ricorrono i 400 anni da quel 1609, anno in cui Galileo Galilei per la prima volta puntò un cannocchiale al cielo con scopi scientifici per provare a studiarlo con occhio da scienziato. E da allora di cose ne sono successe. E per celebrare questi 400 anni di grandi scoperte, di grandi passi avanti fatti dall'umanità, proprio studiando il cielo, è stato deciso di celebrare all'anno 2009 come anno internazionale dell'astronomia. Quindi in tutto il mondo si fanno manifestazioni, iniziative, tutte dedicate all'astronomia per cercare di avvicinare il cielo a tutta l'umanità. Perfetto Elena, allora adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo davvero con la trasmissione. To talk about our dates, but we fail. I've given most of my time to a job and to mundanities, and now it's late, I fear I'm slowly decaying by degrees. And according to what I see, there is no sense, there is not much to say, there is no evidence that life is no instead of broken down dreams. As far as the eye can see, such high hopes and we had money to spend. There was a world to gain just there around the bend. There were things of gold, bodies of milk and honey, as far as the eye can see. So day by day our blood, our bones, our strength, our belief, our faith in God, gets slowly deconstructed, eroded and turned into mud. It's now that we decide to give up faith and courage all the way. It's just the points of view get blurred a little more day by day. According to what I see, there is no sense, there is not much to say, there is no evidence. Allora Elena, siamo ritornati in studio per parlare fondamentalmente di un sito, che è un sito molto particolare, che è stato messo online proprio il 20 luglio 2009, ai 40 anni dal primo sbarco umano sulla Luna. Si chiama vacanzesullaluna.com. Prima di tutto ti voglio chiedere come nasce questo sito e quindi chi ha avuto l'idea di farlo. Allora, questo sito nasce proprio, appunto, come hai detto, perché ricorre questi 40 anni, questo anniversario, anche questo è molto importante, 40 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna. E quest'anno se ne è parlato parecchio, ha avuto parecchio risonanza questo fatto. Non a caso siamo nel corso dell'anno internazionale dell'astronomia, quindi questo è un secondo anniversario importante che cade proprio quest'anno. Allora, in concomitanza con questo si è parlato tantissimo di Luna, sono state fatte un sacco di iniziative, ne hanno parlato giornali, telegiornali, sono usciti un sacco di siti. In questo un po' vespaio di iniziative sulla Luna, è venuta a noi Nellina su questa idea di fare qualcosa, anche noi di fare la nostra proposta, però di farla un po' diversa dagli altri, con un approccio un po' diverso, dicendo per carità le stesse cose che si trovano in tutti gli altri siti, non diciamo nulla di nuovo, non facciamo grandi rivelazioni, niente di tutto questo, però le proponiamo semplicemente con una metafora diversa, quella del viaggio. Visto che siamo in clima vacanziero, è estate, la gente ha voglia di vacanze, e quindi perché non unire queste due cose? Fare un sito pensato all'eventuale turista che vuole andare sulla Luna, dicendogli tutte le informazioni che servono. Elena, ma non si possono fare delle vacanze sulla Luna, giusto? Attualmente proprio no. Se ne parla come ipotesi per un futuro ancora molto lontano. Al momento però esiste e c'è il turismo spaziale, questo sì, però ancora non la Luna è ancora troppo lontana per il momento. Senti Elena, fai finta che io qua davanti non abbia veramente un browser e possa digitare www.vacanzesullaluna.com. Mi vorresti descrivere più o meno come è fatto questo sito e come è strutturato? Questo sito, appena lo apri, appena vai su www.vacanzesullaluna.com, vedrai che insomma quello che sembra è proprio il sito di un'agenzia turistica, perché la prima pagina ti dice è tempo di vacanze sulla Luna, perché non fare un viaggio sia nel tempo ma anche nello spazio, scegli la Luna per questa estate 2009. E poi c'è una piccola riga che ci dice in realtà puntini puntini, in realtà, allora vai a una pagina successiva del sito e lì scopri in realtà, perché si ipotizza già il turismo lunare. A cosa stanno pensando? Cosa succederà se ci sarà un giorno davvero il turismo lunare? Potranno i turisti ad andare a calpestare le impronte di Armstrong? No, bisogna già pensare a cosa fare. E poi appunto dopo questa prima pagina iniziale ci sono tutte le altre voci del menu, proprio come, ripeto, quelle di un'agenzia turistica, che ti dicono c'è la sezione biglietti, quanto costa, allora anche lì sono delle ipotesi su quanto potrebbe venire a costare il viaggio, e poi c'è in realtà, anche in questo caso, ti dice quanto costa il turismo spaziale oggi, perché costa così tanto, eccetera. E ci sono prenota, le avvertenze, ecco, tutte cose di questo tipo che servono a un ipotetico turista. Senti Elena, una cosa che mi ha fatto molto divertire quando ho visto questo sito la prima volta è la sezione tute spaziali. Ora, le tute spaziali sono particolari, insomma, non ci immaginiamo le tute spaziali come degli abbigliamenti che possiamo portare tutti i giorni. Effettivamente, quali sono le difficoltà per un turista ipotetico spaziale che decidesse di comprare una tuta spaziale alla COP di turno e decidere di prendere uno shuttle sempre alla COP di turno per andare sulla Luna? La prima difficoltà è appunto il costo. Questo non c'è scritto nel sito, però immagino, ipotesi, che se davvero ci fosse il turismo lunare, credo che le tute comunque verrebbero noleggiate, non è che si compra la tuta poi se la tiene a casa, questo credo, perché vengono a costare svariate migliaia di euro. Alla fine la tuta spaziale è la nostra casa quando siamo nello spazio, quindi il costo è equivalente o molto superiore a quello di una casa addirittura. Ecco, quindi le difficoltà sarebbero economiche, non sembrerebbe certo alla COP di turno, si sarebbe assistiti assolutamente dai tecnici di missione, la tuta deve essere perfettamente aderente al corpo, quindi deve essere personalizzata, poi però ci sono degli accessori che vengono montati, che possono essere riutilizzati per altri astronauti. Il fatto di avere la propria tuta personale, comprarsela, eccetera, credo sia abbastanza improbabile anche per il futuro. Poi non si sa, visto che i turisti sono comunque, i turisti spaziali già adesso sono molto ben forniti in quanto a denaro, potrebbero anche avere il capriccio di comprarsela e tenersela come ricordo. Senti un'altra cosa, effettivamente quali sono i personaggi celebri che sono stati sulla Luna, quindi che hanno zompettato con i loro piedini su questo territorio che in realtà per gli astronauti che sono andati veramente non sembra essere così affascinante come noi ce lo immaginiamo? I personaggi celebri sono stati celebri, fra virgolette, perché poi sono diventati celebrità a posteriori, sono stati soltanto gli astronauti delle missioni Apollo che hanno messo piede sul nostro satellite. Il più famoso di loro è il primo, ovviamente, Neil Armstrong, e poi ci sono stati gli altri che hanno fatto cose particolari, come ad esempio quella curiosa, l'astronauta Charlie Duke, che ha lasciato, che ha deposto sulla superficie lunare la foto della propria famiglia, una cosa molto curiosa e simpatica, questa di cui si parla anche nel sito, lasciato sulla superficie lunare la foto della propria famiglia. Sul retro di questa foto c'erano le firme di tutti i componenti della sua famiglia con scritto: questa è la famiglia di Charlie Duke arrivata sulla Luna nell'aprile del 1972. Allora Elena, l'ultima cosa che ti voglio chiedere all'interno di questo quarto d'ora, di questo primo quarto d'ora del podcast sull'anno internazionale dell'astronomia, effettivamente dove possono visitare il sito i nostri radioascoltatori e soprattutto chi possono contattare per avere informazioni sul prossimo viaggio lunare? Allora, il sito, ripetiamo l'indirizzo, è www.vacanzesullaluna.com. E c'è la possibilità in questo sito, alla sezione contatti, di mandare una email all'indirizzo comunicazione@inaf.it, che è gestito da noi astronomi dell'INAF, e c'è la possibilità di chiedere curiosità, di fare domande, di chiedere maggiori informazioni e di parlare direttamente con degli astronomi. In questo modo potete, se vi è rimasta qualche curiosità guardando il sito o se ve ne sono nate di nuove, potete usare questa mail per contattarci. Elena, ti ringrazio della disponibilità, ti ringrazio di aver partecipato a questa trasmissione. Andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi ricominceremo con la trasmissione. Bentornati in studio cari radioascoltatori, abbiamo parlato prima di vacanzesullaluna.com, un sito dedicato tutto alla Luna, e questa volta continuiamo con i siti, continuiamo quindi con internet e parliamo fondamentalmente del sito principale dell'Anno Internazionale dell'Astronomia per quanto riguarda l'Italia. E stiamo parlando con la dottoressa Valeria Cappelli dell'INAF e curatrice del sito appunto astronomy2009.it. Buongiorno Valeria. Buongiorno a voi. Valeria, senti una cosa, descrivimi più o meno come è nato questo sito, perché questo sito per la prima volta nell'astronomia integra l'astronomia, quindi internet, con il 2.0. Sì, esatto, era proprio il nostro intento, ovvero, visto che l'anno dell'astronomia si rivolge a un pubblico più ampio possibile e soprattutto ai giovani, con il motto l'universo per scoprirlo, la nostra idea era quella di far passare questo messaggio anche attraverso il mezzo più vicino ai giovani, e quindi sul web. Il nostro obiettivo era non di fare un sito canonico, quindi semplicemente una vetrina di notizie e di informazioni, come tra l'altro comunque questo sito è, ma anche di integrarlo con tutto quello che c'è, che ruota intorno al web 2.0, quindi YouTube, quindi un canale Flickr per le immagini, quindi Twitter, e la possibilità da parte di tutti gli utenti di registrarsi come utenti attivi e di inserire le proprie iniziative, quindi di creare un sito che fosse vissuto e anche alimentato dai suoi fruitori. Valeria, la cosa interessante è che fondamentalmente questo sito non è fatto veramente staticamente, quindi tutte le persone possono contribuire a fare di questo sito, da un sito normale come era in partenza, a un sito bello completo con immagini, video, quindi c'è la possibilità di inserire contenuti da parte degli utenti, giusto? Sì, e la cosa in modo anche inaspettato e molto più positivo rispetto alle nostre aspettative è che il pubblico ha risposto in modo massiccio, per cui ci sono quasi 1000 iniziative registrate, organizzate in tutta Italia per l'anno dell'astronomia, ci sono gallerie di immagini nutritissime di foto degli eventi, foto astronomiche scattate dagli autori, ci sono video su Twitter, si sta creando lentamente una piccola comunità di follower, come si dice, dell'evento, e quindi diciamo che tutte le nostre più rosee aspettative sono state ampiamente superate, quindi il sito è diventato un riferimento non solo per le news e per le informazioni, diciamo così, statiche, ma anche proprio un modo per interagire, per dare il proprio contributo a questo anno dell'astronomia. Hai più o meno una stima di quanti visitatori ha al giorno questo sito? Al giorno diciamo che c'è una media che oscilla intorno ai 500, quindi ogni mese, almeno nel mese di giugno, abbiamo toccato quasi i 10.000 visitatori, cosa che per un sito che diciamo in un certo modo è di nicchia e di sicuro non è il sito di un quotidiano online o qualcosa di richiamo veramente massificato, ci sembra un buon risultato. Poi peraltro sono apparsi vari spin-off, tipo, non lo so, il sito di Professione Astronoma, in cui si parla appunto della professione dell'astronomia fatta però al femminile, poi citiamo ancora una volta Vacanze sulla Luna, insomma il sito composto da vari siti che si linkano fra di loro, è un po' l'anima del 2.0, ma effettivamente se tu potessi dare una stima di quello che sta succedendo, facendo più o meno un bilancio dell'anno internazionale, siamo più o meno a metà anno, come lo giudichi quest'anno, quindi come giudichi l'andamento di questo anno internazionale dell'astronomia? Beh, direi che non per fare autopromozione, perché assolutamente non è lo scopo, diciamo che anche qui le aspettative sono state superate, soprattutto perché questo anno dell'astronomia non si è limitato ad essere un appuntamento molto atteso e molto importante per gli addetti ai lavori, per i professionisti e per le comunità di astronomi o accademiche, ma diciamo che è diventato un appuntamento che coinvolge il grande pubblico, quindi una distribuzione di eventi completamente uniforme dal Trentino alla Sicilia, e una quantità e una varietà di opportunità di manifestazioni che spaziano dalle osservazioni guidate del cielo in un parco naturale a rassegne cinematografiche a tema, a incontri con astronomi che coinvolgono un pubblico che ha una fascia d'età compresa fra gli 8 e gli 80 anni, cosa che noi giudichiamo in modo molto molto positivo. Senti, una domanda te la voglio fare, forse è una domanda scomoda, però è una domanda che ti voglio porre. All'interno di questo anno, credi che siano nate iniziative, tra virgolette, innovative, quindi iniziative che puntano a rinnovare la divulgazione dell'astronomia, o pensi che bene o male quest'anno non vada più o meno diversamente degli altri anni? Io credo che in un certo modo ci sia stata un'innovazione, nel senso che si sono state tentate numerose strade perlomeno diverse, perlomeno meno battute, quindi dalla divulgazione online per i ragazzi delle scuole elementari fino appunto al tentativo compiuto non solo da noi come INAF ma anche da gruppi astrofili o piccole realtà di integrare le varie tecnologie, di integrare l'astronomia con la vita, diciamo, culturale più ampia, quindi di integrarla con l'arte, con la musica, con... probabilmente non ci saranno state cose rivoluzionarie, almeno fino ad oggi. Di sicuro la cosa che per noi è una cosa molto positiva e molto importante è proprio il fatto di aver coinvolto in modi nuovi e con strade nuove un pubblico molto molto ampio. Ti sentiresti di citare più o meno gli eventi maggiori che sono avvenuti in Italia fino ad ora, senza far torto, diciamo, a tutti gli altri che sono avvenuti in Italia? Dunque, diciamo che quindi la superstar dell'anno dell'astronomia è inevitabilmente Galileo, perché l'anno dell'astronomia cade in modo non casuale in concomitanza con i 400 anni dalle prime osservazioni effettuate da lui col telescopio, con tutta la portata rivoluzionaria che queste hanno avuto. Quindi da una serie di pubblicazioni a tema edite da case editrici scientifiche italiane fino alla mostra Il futuro di Galileo a Padova o Galileo, le immagini dell'universo in corso a Palazzo Strozzi, diciamo che quelle intorno a Galileo sono state le iniziative più tra virgolette forti dell'anno. Questo però senza nulla togliere a una serie di manifestazioni appunto artistiche, scientifiche e pubbliche nel senso più ampio della parola che si sono svolte e che si stanno svolgendo in tutta Italia, quindi da in questi giorni in particolare intorno alle celebrazioni per i 40 anni dell'allunaggio, quindi con proiezione di filmati d'epoca, podcast a tema, rassegne stampa e online dedicate a questo grande evento. Valeria, una cosa interessante che guardando il sito astronomi2009.it c'è una divisione fra iniziative pubbliche e iniziative dell'INAF. Fra le iniziative dell'INAF c'è anche una iniziativa particolare che è il cosiddetto Galileo Scope. Ora, che cos'è esattamente questo Galileo Scope? Quindi che cos'è questa specie di costruzione a casa, fatta a casa di un telescopio che dovrebbe simulare quello che ha utilizzato Galileo 400 anni fa? Diciamo che il Galileo Scope rappresenta un buon esempio di quello che è lo spirito dell'anno dell'astronomia, ovvero è un progetto internazionale, quindi che tutte gli oltre 140 paesi che partecipano all'anno dell'astronomia hanno adottato in misura e in modo diverso, ed è il modo più diciamo diretto che è stato scelto per coinvolgere i bambini in particolare in queste celebrazioni dell'astronomia e per invitarli ad alzare lo sguardo al cielo per scoprirne il fascino, quindi dando loro con una spesa molto limitata un piccolo telescopio che simuli il cannocchiale galileiano e che permetta loro di osservare il cielo ripercorrendone le orme. Ecco, quindi un'iniziativa, diciamo così, educativa e divulgativa, molto di impatto e molto poco costosa. Perfetto, senza anche adesso fare torto a nessuno, ma se volessi scegliere un evento dell'anno internazionale dell'astronomia da seguire assolutamente per il futuro, quale sceglieresti? Dunque, credo che l'evento che mi sentirei di segnalare, anche per non far torto a nessuno, sia l'evento finale dell'anno dell'astronomia che si svolgerà a Padova il 9 e il 10 gennaio 2010, proprio in concomitanza con la sera in cui Galileo osservò i satelliti di Giove per la prima volta in una città che ha significato molto, moltissimo per Galileo stesso. E in questi due giorni ci sarà una celebrazione globale dell'astronomia con una sessione professionale dedicata appunto agli astronomi e agli accademici e con invece una sessione pubblica che coinvolgerà l'intera città e ci auguriamo il maggior pubblico possibile in una serie di eventi, di iniziative pubbliche nei luoghi storici ma anche proprio negli spazi della città per appunto ricordare questo evento e per coinvolgere le persone, dai più piccoli ai più grandi, nella riscoperta del cielo. Valeria, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa: facciamo finta di essere, non lo so, sulla Terra e quindi di dover dare delle coordinate latitudine e longitudine. Siamo su internet e quindi dobbiamo dare delle coordinate per seguire l'anno internazionale dell'astronomia in Italia. Quali sono le coordinate, come fare a seguire quest'anno, qual è l'indirizzo del sito, come fare a iscriversi alla newsletter, eccetera eccetera. Allora, senz'altro www.astronomy2009.it per seguire tutte le iniziative, per avere il calendario completo degli eventi, per potersi iscrivere e registrare il proprio evento e per seguire la newsletter e per caricare le proprie immagini e i propri video, qualora se ne avessero. Poi c'è www.twitter.com/2009astronomia per seguire in tempo reale i piccoli tweet dedicati all'anno dell'astronomia giorno per giorno, e poi www.professionastronoma.it, che è il blog delle astronome italiane, che raccontano in modo molto ironico e molto sincero la loro vita da astronome. Benissimo Valeria, così si conclude Caccia al Fotone. Io saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e di Caccia al Fotone, e come al solito vi do l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie Valeria. Grazie. Io, Galileo Galilei, pubblicamente abiuro la mia dottrina.